Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Abbiamo iniziato puntuali alle ore 7 con una Ecate, una Demetra, una Luna assolutamente nitida, adesso un po' più pallida per l'arrivo di una luce piena, seppur d'inverno. Inizio settimana, lunedì 5 febbraio, i magazine che partono subito dopo i magazine, in quanto stiamo aspettando l'anticipazione per l'edizione del Festival della Poesia di Ferrara, che ho voluto inserire all'interno della nostra rassegna culturale. Alcuni dei protagonisti dovrebbero, se mattinieri, arrivare in studio diretta qui per il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Intanto iniziamo. I know we all can drop a wood like a chauffeur. I hope for your help, so pick up yourself and see the new day breaking, making you tighten your belt. Ho iniziato con le parole del mito e con un mito cominciamo grazie a un lavoro di una saggista che ho già portato anche in premio per quanto riguarda i lavori di Eva Cantarella, che con un'attenzione al mondo del mito, con la voce delle donne, dà approfondimento ad alcuni personaggi. Ora è il momento di Antigone. Antigone, una figura egocentrica, monocorde, individualista, incapace di concepire una realtà diversa dalla sua, incapace di amare se non la morte. Pensate, addirittura con queste parole inizia Eva Cantarella per quella che è stata una figura invece che ha dato più volte la voce e la voglia di aver diritto di poter esprimere i propri diritti, tanto più che anche ai giorni nostri, sapete, il mito è tutti i tempi. Antigone è una figura che rappresenta anche alcuni movimenti libertari, movimenti per i diritti civili e chi più ne ha più ne metta. Giustamente mi ha smontato un po' il mito di Antigone Eva Cantarella. Riconosce la bontà delle leggi della città ma non vuole obbedire, molto meglio la sorella Ismene. La sorella invece non vuole essere sua complice per quanto riguarda la sepoltura decorosa del fratello Polinice, perché dice: no, se il re ha deciso così non possiamo disubbedire. Ma come, lei è la figura trainante di questa analisi, che è una figura invece sottomessa? Bah, è l'articolo long format e vi sono diverse critiche anche per quanto riguarda l'eroina di Sofocle adottata dalla mitologia contemporanea, giustamente come una paladina dei diritti umani. Per saperne di più, intanto, Antigone è figlia di Edipo, è figlia del rapporto incestuoso tra Edipo, re di Tebe, e la moglie e la madre moglie Giocasta, che si dice, no? Complesso di Edipo e il complesso di Giocasta. Antigone era sorella minore di Ismene e di Polinice. Per una guerra intestina verrà ucciso. Lei, assolutamente addolorata di tutto ciò, torna in patria e dice: darò degna sepoltura a Polinice. Il re invece, appunto Edipo, non è d'accordo su questo, no? Non la merita, perché lui ha scatenato questo conflitto, quindi non puoi, lasciamo il suo corpo in pasto agli avvoltoi e a quelli che sono gli animali necrofagi più cruenti. No, assolutamente, io disubbedisco e darò degna sepoltura a mio fratello, anzi chiederò aiuto a mia sorella. La sorella timorosa dice: no, io non me la sento. E lei da sola allora disubbedisce e porterà alle spoglie mortali del povero Polinice un degno riposo. Verrà scoperta e, pensate un po', il padre non la prende benissimo e la fa murare viva. Intanto l'innamorato di Antigone la cerca, che te cerca, purtroppo trova questa grotta dove lei viene murata viva, ma è troppo tardi. Purtroppo Antigone è spirata. È una tragedia del grande Sofocle. Viene ripresa in maniera critica da Eva Cantarella. È sempre bello poi nel mito dare diverse interpretazioni, tanto più che il titolo principale della lettura del Corriere della Sera è Antigone a torto. Diversa, come ho detto, intanto è il fratello di Edipo Creonte il re che la condannerà. Quella di Creonte è tutta sulla vita, ma una vita che porta morte. A entrambi manca la capacità di andare incontro al contingente, alle cose della vita, caratteristica invece di Emone e di Ismene. Emone è lo spasimante, l'innamorato di Antigone, e Ismene ne è la sorella. Emone dice una frase bellissima: gli alberi presi nella corrente tempestosa del fiume si salvano se sanno piegarsi, se sanno flettersi, se restano rigidi vengono spazzati via. Ismene è una donna che si adegua, viene trattata malissimo dalla sorella Antigone, eppure a un certo punto dice: sono disposta a morire anch'io se non ne ha nessuna voglia la sorella, e la rifiuta con una durezza sconcertante. Ecco, io credo, dice l'autrice del lavoro contro Antigone, anche per quanto riguarda questo rifiuto, che la grande opposizione sia tra due personaggi che in modo diverso manifestano un'inflessibilità terrificante, e due personaggi che invece vogliono vivere. Il fidanzato Emone, lo spasimante, l'innamorato, è un personaggio straordinario. Io lo considero il primo eroe romantico, e anche a questo proposito Antigone è umanamente un mostro. A questo fidanzato, che tra l'altro poi si suicida quando la trova morta nella sua condanna, eppure non ne parla mai. Lui non esiste per lei. Non c'è una volta in cui lo pensi o immagini di vederlo. Non lo nomina neppure quando, andando a morte, dice: non vedrò il giorno delle nozze. If y'all could do it, If y'all could do it, If y'all could do it, If y'all could do it, If y'all could do it, If y'all could do it, If y'all can do it, If y'all can do it, yeah, L'abbiamo già trovata, la saggista storica Eva Cantarella, con attenzione per le voci nel mito declinate al femminile. Non mi sarei aspettato una critica in questo caso per quella che è una figura ribelle, un'immagine iconografica, ma come ben sapete il mito dà mille interpretazioni e allo stesso modo è proprio per questo che resta tutti i tempi. Sono le 7:57 minuti, dal mito all'arte. Sono voluto partire con questo long format molto bello che ho letto dalla lettura del Corriere della Sera, che potete trovare in edicola per tutta la settimana, come Robinson di Repubblica del resto. Invito tutti, le testate che danno inserto culturale, di portarlo nel percorso settimanale a disposizione di lettrici e lettori. Un po' di musica, si ritorna dopo la pubblicità che non abbiamo mandato alle 7:30, dopo gli spot avremo nuovamente i magazine e parleremo di arte contemporanea, anche qui con un'analisi critica, cambiando inserto culturale. Dalla lettura del Corriere della Sera passeremo alla Domenica del Sole 24 ore. Stop. You know what you got is what I need. Oh yes indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee. That you're playing a game, it's so plain. You want me to win. is get to you, and then I feel just fine. I'm on a down, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. You're so good, the way you give. You're so good, you're the best there. E se per conoscere il mito di Antigone bisogna conoscere anche Edipo Re, questo personaggio che si uccide dopo aver scoperto che lui inconsapevole ha ucciso il padre ed è stato, ha giaciuto così sensualmente con la madre giocasta, scopre tutto ciò, ne viene a consapevolezza e si uccide. Questo porterà Creonte ad avere il potere su Tebe e scatenerà delle guerre intestine. Queste guerre porteranno alla morte di Polinice, uno dei fratelli di Antigone, e poi il resto ve l'ho raccontato nella parte precedente. Condannato a marcire, divorato dagli avvoltoi, Antigone dice: eh no, è mio fratello. Disubbedisce, ne dà degna sepoltura e questo porterà a una condanna tremenda, a essere murata viva. Chiederà aiuto alla sorella Ismene, che dirà: no, non posso. E da Eva Cantarella arriva invece un elogio a questa, ecco, in questo caso è un'attenzione alla, a quella parola che è abusata ultimamente, che è la resilienza. Quante traduzioni ha il mito e quante ne ha l'arte, quanta è cambiata, quanta è l'interpretazione artistica nella critica dell'arte, il contemporaneo, l'arte concettuale. Allora, come vi ho detto, arriviamo alla domenica. A proposito di arte e di esposizioni, ricordo che in Sala Borsa si sta allestendo e parte Pinocchio il burattino senza età. È un catalogo molto bello, molto molto bello, è per voi, perché vi ho parlato di Edipo. Sapete chi ha incontrato Edipo? È un quiz molto facile, in questo momento mi trasformo in Sfinge, ma lo sapete bene, no? Il quiz che ha portato a salvare la vita a Edipo quando si trovò in confronto con la Sfinge a Tebe per il passaggio alla città. La Sfinge chiese a Edipo: qual è quell'animale che da cucciolo cammina a quattro zampe, da grande a due, e quando è vicino alla fine del suo percorso a tre? Qual è questo animale? Beh, dai, scrivetelo al 333-180-9494 e vi faccio avere queste bellissime 100 tavole d'autore: Raul Verdini, Gianni Rodari, Vinicio Berti, Pinocchio il burattino senza età. E vi consiglio, anzi vi obbligo, alla visita in Sala Borsa per la partenza dell'esposizione con il burattino tutti i tempi, come il mito, no? È diventato tutti i tempi e senza età. La Sfinge, Edipo, il famoso indovinello quiz che propongo a voi trasformandovi in Sfinge, ma sapete bene che è estremamente facile, quindi aspetto la risposta al 333-180-9494. Qual è? Da cucciolo, quattro zampe, da adulto, due, e in procinto alla fine della sua esistenza terrena, a tre. Bravo Dino, te lo meriti, e come, e sicuramente avrai modo di godere di queste bellissime immagini, lo puoi mettere nel settore arte Radio Città Fujiko. Sono molto contento di farti trovare in redazione o da Ubic questo lavoro per l'esposizione che è in soggetto tra il CRAP, il centro di ricerca, il pioniere Radio Città Fujiko, dedicata a Pinocchio. Quell'animale è l'uomo, eh sì. chi non indovinava la Sfinge lo divorava, ecco. No, non, no, tu invece sarai premiato. Intanto grazie per i suggerimenti in musica italiana. Esposizione, arte, essere e fare gli artisti nell'era del disincanto, un articolo bellissimo di Ugo Nespolo, prima pagina dalla Domenica del Sole 24 Ore. Il crollo dei dogmi con il postmoderno, l'ambiguo uso della citazione, la tentazione di dire che tutto va bene, l'artista che ha abbandonato il suo ruolo di intellettuale. Ugo Nespolo riflette sul tema. È un tema che in effetti dà motivo di approfondimento, un long format in partenza sulla Domenica, e giustamente parte in questo modo, che occorre ricordare a noi stessi di come la cultura degli ultimi decenni abbia vissuto il conflitto tra un'idea esausta di modernità e il presunto sovvertimento della teorizzazione postmoderna. Sembrano paroloni e lo sono, ma è quanto mai semplice. Intanto la modernità ha mimato, ha imitato il processo della storia, che è di continua emancipazione. Nel pensiero di alcuni studiosi come Vattimo o Compagnon, la modernità finisce nel momento in cui nasce l'impossibilità di concepire la storia come un processo unitario. E possiamo fare un parallelismo politico-sociale anche. Quando il vecchio decade e il nuovo non avanza, purtroppo si va nell'entropia, nella decadenza, e molto spesso, per quanto riguarda invece la politica, si generano mostri. Quindi è una critica sull'arte molto così tranchant, molto draconiana di Ugo Nespolo, però è azzeccata da motivo di riflettere. È preso da tre saggi, è preso da tre lavori, si è vissuta e si vive, si pure con ansia crescente da parte degli artisti, l'idea di un'arte espansa, figlia del concetto benjaminiano di perdita dell'aura come libero gioco di compenetrazione di arte e di vita nelle più svariate esperienze, senza alcun limite. Il dogmatismo storico e storicistico si è come capovolto in possibilismo, che è totalmente senza regole, capace di spezzare i confini anche tra i generi, fondendo parole, immagine e suono. Sì, e lo troviamo e lo vediamo, e come anche l'esubero, per così dire, di tutto ciò, e qui entriamo in altri campi di comunicazione che spesso critico, certo, diamo motivo anche a tutto ciò di approfondimento, ma se va bene tutto, alla fine non va bene niente. Se il vecchio decade e il nuovo non avanza, è un po' il contenuto. Se lo trasformiamo da critica artistica, lo portiamo a una critica politico-sociale, possiamo trovare questo aspetto parallelo. Tutto ciò porta a un'entropia, a un decadere, e per quanto riguarda invece l'ordinamento politico-sociale, può generare mostri. Non vorrei, tornando al mito, essere Cassandra, ma è un po' quello che stiamo vivendo, ecco. E anche da Alias edizione domenicale ho selezionato due lavori che porterò al Voltiamo Pagina oppure a stessi magazine. Alias edizione domenicale, per quanto riguarda classicità, mito, letteratura, ricerca letteraria, filosofia, è uno dei magazine veramente da non perdere. Allegato al Manifesto per la giornata di domenica, la prima pagina è dedicata Alexander Herzen, che io non conoscevo nonostante la mia passione per lo slavismo e tutta la letteratura russa. Ho calcolato che più o meno ci vogliono 10 vite per leggere tutta la letteratura russa, però è tradotto per la prima volta, quindi è un autore che è stato riscoperto, è tradotto da Mondadori. Di chi è la colpa? Fu scritto da Alexander Herzen, padre del populismo russo. Prima di emigrare da Mondadori è arrivata questa edizione insieme a due novelle. La sola autorità difendibile è l'amore. Dai romanzi russi più o meno di metà Ottocento hanno per titolo interrogativi impellenti. Di chi è la colpa e che fare? In forma di domanda indicano bene la singolare funzione che la letteratura russa fu chiamata a svolgere. Sì, volente o meno nel corso di quel secolo, scrutare la realtà facendo ricorso a strumenti concettuali presi dall'ambito dell'etica e della critica sociale. Tanti autori poi sono partiti, dal maestro Tolstoi fino ad arrivare al Novecento, fino anche a personaggi che hanno avuto il ruolo da protagonista, come Lenin con il Che fare. Edizioni Mondadori sono edizioni, per quanto riguarda la ricerca letteraria, assolutamente importanti. Si parte dal romanzo e dalle due novelle che sono state scritte nel 1863 e pensiamo che nel 1905 ci fu la prima rivoluzione contro lo zar, che sì, fu repressa, ma portò lo zar a concedere un minimo di pluralismo in una realtà estesa e feudale dove l'assolutismo regnava. Sì, è stata soppressa, ma ha portato concessioni importanti ed ha aperto la strada poi nel 1917 a quella che sarà la rivoluzione d'ottobre. Attualissimo, sono le 8:20, quasi 8:21, vedo entrare in studio diretta sui 103.1 Gabriele Via per quanto riguarda un'anticipazione sul Festival della Poesia a Ferrara che non possiamo assolutamente perdere. Come ho detto, ho trovato nella presentazione del Jazz Club stagione 2024 di Ferrara alcune locandine che portavano questa rassegna e ho detto devo sentire Gabriele e invece lui mi ha anticipato. È stato un gioco da anticipo veramente molto preciso, come preciso è qua in diretta con noi. A breve piccolo stacco musicale perché avremo anche musica dal vivo ed è una cosa che sempre mi emoziona. E restate quindi sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fujiko per questi magazine in edizione straordinaria. A tra poco. Bottom up. Non è una novità avere queste sorprese con Gabriele, al quale do il buongiorno. Buongiorno, benvenuto, bentrovato. Buongiorno, buongiorno William. Buongiorno a tutti. Ecco, adesso ti ho dato anche il ritorno in cuffia, vedi? Sì. Basta chiedere adesso ci che ti sarà dato. Non sentivo niente. Dico, boh. Adesso ci sentiamo. Ci siamo. Sì, sì. Grazie, sì. So che è un orario abbastanza mattiniero, però insomma vi vedo in forma e presenti. Saluto anche Gina Battisti, chitarrista. Buongiorno, buongiorno a te. Battista. Battista. Ah, ok. Uno solo. Sì. Non più. Sì, una basta. Una basta. Unica, ok. Iniziamo, Gabriele. Allora, linee generali per quanto riguarda la realtà del Festival di Poesia. E chiedo a Gina un po' di base per fare del sound check. Sentiamo. Oh, senti che bellezza! Sì, allora, sai, è una cosa insieme triste e insieme felice. Oh. Quindi è molto vicina alla vita. Triste perché Roberto Pazzi ci ha lasciati. Roberto era un amico, ho avuto la fortuna di conoscerlo nel 2006 e c'è stato veramente un bel rapporto. E Roberto ci lascia in dicembre e lascia un percorso artistico bellissimo. E lui era proprio un cittadino di Ferrara acquisito e subito, perché come Ariosto, no? Come altri che sono capitati in questa città, è diventato il poeta di Ferrara. E che eredità che va a raccogliere. È un'eredità che adesso ci sono persone a lui molto vicine e care, Stefano Baldrati, Alessandro Turco che lo ha seguito per più di 30 anni e poi questa bella iniziativa, questa intelligenza, questa capacità che ha Marcello Corvino, che è direttore del teatro, sì, comunale. Ciao Marcello, ti stanno salutando, ti salutiamo. Che ha detto proprio subito: bisogna fare per la poesia, bisogna fare. È una prima edizione. Credo di sì, secondo me sì, anche per questo punto mi è arrivata la telefonata. Marcello fa: senti, fai qualcosa per Roberto. Certo, certo. E poi. Io mi sono concentrato sul mio momento, ma poi ho visto che il programma si è allargato, è bellissimo, ci sono dei nomi fantastici, c'è Elio Pecora che viene da Roma. Elio è il poeta vivente italiano maggiore, un signore del... adesso si può dire l'età dei signori. Sì. Elio è del 36, non è un ragazzo. Sì, non è juniores. Quindi no. È una voce che ti porta la testimonianza della Roma di Moravia, di Pasolini, della Morante, insomma, è storia. Ed è tuttora presente, attivo, promuove, quindi è una grande figura. Poi ci sono anche altre figure, c'è Silvia Brece, Viviane Lamarck, insomma, si fa in poco tempo. Marcello ha costruito una rete di relazioni bellissima. Bene, e questa è una cosa molto bella, non solo per la città di Ferrara, ma per tutte e per tutti. E così come oggi, per fortuna, Gina mi ha sostenuto, perché stiamo proprio, è un cantiere in corso. Io però sarò a Ferrara il 9 con Biagio La Banca, sì, che è un chitarrista, signor chitarrista, che in quell'occasione anche lui sarà presente in diverse circostanze, perché si celebrerà la poesia molto anche con la musica. Ecco, questo ed è un incontro bellissimo. Ne avremo, sì, un'anticipazione anche qui. Beh, sì, qualcosina. Un frammentino, sì, anche per fare sentire almeno i versi di Roberto e la modalità, una delle modalità con cui andiamo a farne memoria, appunto, con gioia e tristezza insieme. Luoghi dei festival? I luoghi dei festival sono il Teatro Comunale e il Teatro Cortasar, sì, che è subito fuori, appena fuori città. Poi se ce n'è altri ancora, ti dico, io siamo, ecco, in cantiere. Sì, io sono abusivo, io non sono del teatro. Però ne parlo come cosa, perché ci sono dentro, poi con Marcello insomma un po' ci si conosce. Festival della Poesia Roberto Pazzi, 7-11 febbraio, queste sono le date. Oggi che, è il 5, che per contengono. Cui è perfetto. Sì, e quindi sì, confermo i nomi che ti ho detto prima, ci sono altri luoghi. qui c'è stata un'anticipazione a Palazzo dei Diamanti, poi vabbè, insomma, questo lo andiamo a dipanare assieme il programma, magari sì, dalla seconda parte. C'è, c'è Michele Placido, che anche questo è un nome penso che sia abbastanza noto, ci sono delle belle delle si è mosso belle... bene Marcello, ha avuto sì una bella poi c'è una, un momento dedicato a una grandissima Di Ferrara, che ha avuto rapporto anche con Bologna perché studiò al Galvani, che è Giovanna Bempora, è stata una poetessa e una traduttrice di altissimo livello, quindi che si faccia nome anche di Giovanna Bempora, che nel mio piccolo posso dire nelle mie attività a Bologna ho curato, insomma ho fatto delle letture su di lei, quindi sono contento che ci sia questa sensibilità. Questa è l'introduzione, adesso sì, lasciamo spazio a qualche nota anche per scaldare Gina Battista, lanciamo la pubblicità e poi torniamo in diretta. Mi accompagni alla pubblicità con certo un po' di musica, Gina? Grazie. Qualcuno nella via ripete uno stesso nome, nessuno risponde. Quel nome si è portato via tutto il dolce della giornata. Hanno cominciato ad andarsene i colori, l'azzurro prima, poi il rosso, il verde, in un attimo. Ho perduto l'attesa e il ricordo. Un meriggio eterno si è alzato fra ieri e domani. Ho provato a rispondere, ma la voce ha capito l'inganno e ha continuato a coprire la via del sapore della sua domanda. Quando tacerà, proverò a ripetermi dentro l'infinito ritardo della risposta. Quando tacerà, proverò a ripetermi dentro l'infinito ritardo della risposta. Gina Battista alla chitarra e alla voce, voce narrante, Gabriele Via, Festival della Poesia per quanto riguarda la città di Ferrara e non solo, perché la poesia è universale. Per voi in anticipazione e in diretta in questo mini set ai magazine del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Quindi un grande grazie e torniamo nei panni di chi siamo, deve presentare. Siamo tornati qua. Presentatori, ti saluta sì. Sergio Fanti, mio fratello maggiore, il grande maestro. Ciao Sergio. Anch'io lo chiamerò maestro da adesso in avanti. Ok, anche lui una voce bellissima. Sì, poi un fratellone, lui è sì, insomma, sì. È così, quando posso fare un'immagine proprio del cavolo, quando animali selvatici con già, come me, Sergio sì, e te, si che hanno già un po', sai che c'hanno le croste nei gomiti, anche hanno vissuto nella foresta, escono dalla macchia e vanno perché c'è un ruscello con l'acqua, si abbeverano, alzano la testa e vedo che ce n'è un altro, no? E questo punto, lo riconoscono subito, l'abbraccio è immediato. Così, questo un po' abbiamo bevuto un po' dalla stessa fonte. Ma se sì, vogliamo sì. Che bella immagine. Ma così sei contento, Sergio, di tutto ciò? Secondo me dovrebbe esserlo. Sì. Io sarei felice. Procediamo con questa presentazione. Niente. Per il Festival della Poesia. Sì, ringrazio ancora Gina perché, come sentite, sì, siamo entrati in un interplay certo, fecondo, no? Che ha una, sì, una amo jazz, quindi questo set improvvisato e nello stesso tempo con l'interplay. Riusciamo a aprirla questa bottiglietta, a quanto pare. Ce l'ho approfitto fatta. Di Gabriele che beve per ringraziare lui di questa bellissima collaborazione che è nata così. E approfitto invece della tua presenza perché mi è parso di capire che tu hai una grande passione anche per la musica brasiliana. Assolutamente. Dopo sì, ascoltiamo qualcosa, mi concedi qualcosa, certo, magari bozza e violao, come certo, si dice. Ok, grazie. Ok, niente, torniamo a bomba su Roberto. Roberto, attorno al quale si è costruito questo progetto, che poi diamo le indicazioni www perché uno veda questo suo questo programma dedicato a lui. Però direi lui perché allora intanto noi che siamo invischiati nella poesia sappiamo che Roberto è un grande poeta, ma Roberto era conosciuto nel mondo come poeta romanziere, ha scritto quasi una trentina di romanzi, pubblicato veramente in tutto il mondo, e quindi c'è questo doppio registro. La grande popolarità ti è data dal fatto che racconti storie, poi l'anima di questo ti è data dal fatto che sei un poeta. Allora volevo leggere una poesia di Roberto, che è stata la poesia che lui mi ha recitato a memoria mentre un giorno stavamo passeggiando, e ovviamente l'entusiasmo. Roberto era un signore del 46, io sono del 68, quindi è una sorta di a metà tra il papà e il fratello maggiore, però più fratello maggiore, se devo dire, okay, la verità, perché poi avevamo insieme delle memorie di generazioni vecchie che per diverse cose avevamo incontrato, quindi sì, io direi proprio un fratello maggiore, anche per come si è poi sempre proposto nei miei, con i miei confronti, con affetto e insieme anche dandomi lo spazio di una distanza per fare i miei passi. Abbiamo la possibilità anche in questo caso di avere colonna sonora? Se, non lo so, perché non l'abbiamo provata, però possiamo anche fare una sorta di introduzione atmosferica che più sull'arpeggio che sul ritmico, che lo dico, do questa indicazione perché così certo, la musicista sa, che apre a una situazione di ambiguità e insieme okay, di profonda identità, cioè quando uno arriva a chiedersi chi sono, hai già le note d'immagine, queste sono, perché questa poesia spero di sì, questa poesia che ha per titolo Il filo delle bugie, già una roba tra la collana, no, e l'inganno, il filo delle bugie e le perle, esatto, sono queste bugie. A me la mia vita non piace e non posso cambiarla. Mi sforzo allora di farmela piacere e qualche volta mi dimentico. Dico che la vita è bella, ma la vita degli altri mi sta sempre davanti e mi viene una gran malinconia perché nessuno riesce a mentire davanti a me, che so mentire qualche volta così bene da dimenticare che mi sto inventando la vita. Andrà a finire che perderò il filo delle bugie, delle verità, e una cosa nascerà simile alla necessità di odiare qualcuno che amo, nella speranza che male e bene non mentano più e smettano di sembrare diversi. E si ritorna in diretta, è bellissima. È questa poesia, a parte la prima cosa che ha la poesia è come il pane, cioè l'odore che ti dice lo voglio, no? Mi piace, ti deve la prendere. L'acquolina in bocca. Ti deve prendere, perché sì, la poesia è eros, è proprio è sì, l'amore che espande la propria identità e attira il resto la poesia è carnale, questo sì, deve essere assolutamente. Ma in questa carnalità è lo spirito che sta vivendo, quindi è questa doppiezza, cioè il qui ed ora diventa una sorta di presagio di un qualcosa di più grande. E Eros, Thanatos, le due grandi categorie, morte e amore. La poesia è qui e ora, è concreta, ma insieme ti rimanda a una percezione di eterno. In questa poesia in particolare esiste la capacità di tenere in questa bellezza sensibile il tema principe della psicanalisi. Sì, hai dato anche un senso di eterno, di Cronos e di Kairos, del sì, tempo che possiamo misurare e del tempo che sentiamo. Esattamente. La poesia ha anche questo binomio che sì, ci aiuta a riflettere per noi stessi in proiezione assolutamente estesa. E quello che è fondamentale cogliere e comprendere che in Roberto Pazzi questa dimensione della consapevolezza psicanalitica e della dimensione spirituale erano costantemente presenti e producevano proprio un cortocircuito vivace, come la lampadina. Il cortocircuito sì, è controllato da un ambiente e fa luce. E fa una grande luce. E non è male. Certo. Insomma, bella, che poi dai miei studi, gli unici che ho avuto, perché io, come ben sai, ho le tre medie, ho provato a fare l'istituto psichiatrico statale Fioravanti, che è l'Ipsia, che non è professionale. Secondo me è qualcosa che va oltre se scegli di fare l'Ipsia. Sei stato perfetto in elettrotecnica, l'accensione di una lampadina è un cortocircuito, sono la fase e il neutro che si incontrano, trovano una resistenza che si scalda e esplode in un senso luminoso. In un ambiente controllato, oh, che è il certo, vetro. Che è esatto, l'ampolla che fa, o il bulbo, per il meglio bulbo, dire. Giusto, guarda giusto, un po', sarà contento il professor Zappi sì, di me, che mi ha anche rimandato, pensa. Noi siamo ancora per l'incandescenza, perché c'è il calore. Detesto il LED, che è una luce fredda, algida, e poi soprattutto è uno spot che va su un punto. La lampadina è ampia, sì, è una sì, diffusione. Sulla lampadina puoi leggere, puoi far leggere anche ad altre persone. Con il LED invece illumini un punto, hai capito? Certo. È più una luce che ha uno spettro limitato. La lampadina incandescenza resta per me, certo, un esempio poetico quanto mai attinente. E quindi siamo, ragazzi, degli illuminati. Tra la spada laser e il caminetto, caminetto! Ok, ho lasciato anche spazio a un po' di musica come base che mi sono portato, e poi sulle nostre chiacchiere adesso mettere, non so, un choro, una bossa, una... Ma guarda, o quello che più ti aggrada, ecco, facciamo meglio. Dimmi. Volete che faccia un pezzo? Dai, o, tu lo vuoi oppure, fare? Oppure dovete leggere, io vi accompagno. Io faccio quello che più vi aggrada. Che okay, più vi aggrada. Gabriele, che più tu vi aggrada, che sei... Beh, sì, secondo me potrebbe starci ancora la musica, mentre noi a parole sfumiamo, che come l'immagine di un mercato in lontananza, e tu se dici ci voglio andare, no? Vedi i colori. Sì, come buoni venditori abbiamo dato di Roberto un'immagine narrativa a braccio, e due poesie le abbiamo, direi, portate. Basta così, perché sì, sennò ci dovete pagare, no? Uno dice, oh, ragazzi, ecco, la poesia, perché ma la poeta muore povero, sì, lo sai, il poeta muore povero, però sai che mi sono accorto sempre più che ho voglia di tagliatelle, di morte. Questo sempre, però è una maniera di esorcizzare, cioè noi della morte abbiamo paura tutti, ed è una paura naturale, perché cavolo, no? Però come facciamo? Ci facciamo delle battute sopra, no? Sì. La poesia è un po' così, della poesia si scherza, si ride, si... Ah, poeta qua. Poi dopo il poeta però dice una cosa e tang, rimani lì così per un po', perché ha questa capacità di arrivare a toccare l'anima, e uno ci pensa un attimo. Timo, Quindi è una battuta, però è anche vero che nel mondo la poesia ha bisogno di essere riconosciuta almeno quanto è un po' distrattamente sconsiderata dai più, e poi si accorgono che la poesia ti salva la vita. Quindi, più delle volte sì, come la musica, come l'arte, la cultura è quello che appunto dà un contenuto che non è assolutamente da trascurare, anzi probabilmente è quello che la poesia tiene unito tutto ciò dal primo momento che fai una cosa con passione, stai facendo poesia, e questo per me è un assioma che mi ha sempre accompagnato nel mio lavoro, pur non essendo un poeta. E detto questo, si può anche dire, per fare come un legame a ciò che ci attende nel secondi che vengono, che la poesia trasforma la vita in una canzone. Ah certo, certo, e la canzone e poesia, come siete testimoni, possono assolutamente convivere. Assolutamente. Lascio spazio alle parole e alle note. E quindi andiamo a ascoltare questa possibile canzone che la parola ti fa incontrare. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando sale ya más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Standing ovation, per mille. Questa interpretazione, grazie a te, assolutamente una sigla di conclusione a questa apparentemente disordinata partecipazione di Gabriele Via e Gina Battista all'edizione straordinaria odierna dei Magazine. Gabriele, ti vedo attento. Venerdì 9 febbraio 24 al Teatro Cortasara alle ore 18, Gabriele Via legge Roberto Pazzi con l'accompagnamento alla chitarra di Biagio Labanca. Questo indica il programma. E la mattina dopo, sabato 10 febbraio, al Ridotto del Teatro alle 11 si terrà l'omaggio a Roberto Pazzi, scrittore, poeta, giornalista ferrarese, con Marco Gulinelli, assessore alla cultura, Cristiano Bendin, Francesca Capossele. L'incontro sarà arricchito dalle letture tratte dalla Doppia Vista, il romanzo inedito di Roberto Pazzi, letture affidate a Gabriele Via. Questo è Thank you. Siamo arrivati alla conclusione, caro Gabriele. Okay. Io ti ringrazio tanto, è stata una puntata in edizione straordinaria che avete reso speciale davvero. Ci diamo appuntamento a Ferrara, non solo per il jazz, già di per sé con un programma straordinario, ma la splendida città estense ci abbraccia anche con la poesia. Domani il Breakfast Club sarà puntuale come di consueto alle ore 7 per fare colazione assieme con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Questa puntata è stata curata, condotta, suonata e recitata alla chitarra Gina Battista, voce narrante Gabriele Via, servo vostro William Piana, che vi augura una buona settimana. Grazie ragazzi, grazie di cuore, ciao.